Che abbiamo ascoltato e immaginato in questi mesi. Non mancheranno però anche consigli nuovi di zecca, il sommario. In questa puntata andiamo a Venezia, isola di San Giorgio, perché hanno riaperto le Vatican Chapels. Poi restiamo nel nord Italia, precisamente tra Langhe e Monferrato, e poi parleremo di un indice di sicurezza. Il 26 giugno sono ricominciate le visite sull'isola di San Giorgio a Venezia, alle Vatican Chapels. Si tratta di 10 piccole chiese realizzate da altrettanti architetti di fama internazionale in occasione della Biennale di Architettura di 2 anni fa. Il percorso si snoda all'interno di un bosco ed è un percorso che coinvolge più sensi, non solo la vista. Ce lo racconta Ilaria Duva, responsabile delle audioguide della Fondazione Giorgio Cini. Abbiamo chiuso il 20 di febbraio, perché appena c'è stato il giorno, il 21 di febbraio, proprio il giorno in cui c'è stato il primo caso, perché abbiamo deciso che era opportuno chiudere, anche perché comunque siamo in un'isola e quindi insomma abbiamo immaginato subito quali sarebbero state le conseguenze, non tanto quelle sanitarie quanto quelle sull'impatto, cioè quanto l'impatto sul pubblico, sui flussi nei confronti dell'isola. E in tutti questi mesi abbiamo progettato questa riapertura che corrispondesse all'uscita del disco, quindi abbiamo fatto in modo che le due cose andassero esattamente di pari passo, perché ci tenevamo molto che questo inizio fosse così, fosse un insieme di emozioni legate sia alla riapertura delle visite del bosco con le Vatican Chapels, della Fondazione Cini e del San Giorgio Caffè sull'isola di San Giorgio, sia l'uscita della colonna sonora che ha realizzato Antonio Fresa con le audioguide delle Vatican Chapels. Allora, raccontiamo bene il tutto, perché ha dato degli elementi, però dobbiamo specificare, perché qui c'è anche una colonna sonora di cui parlare. Esatto, esatto. Allora, noi gestiamo le visite guidate, la mia azienda gestisce le visite guidate della Fondazione Cini, l'isola di San Giorgio e del bosco con le Vatican Chapels, e lo fa attraverso un sistema audioguidato. Sono sempre state realizzate queste visite con delle audioguide, e quindi occupandoci noi di produzione di contenuti audio e avendo io questa idea di realizzare una colonna sonora prodotta apposta, cioè una colonna sonora che fosse un'interpretazione diversa del percorso, non soltanto un sottofondo musicale, abbiamo pensato che questo potesse essere il posto giusto. E quindi ho invitato Antonio Fresa, che è un compositore di Napoli, che ha scritto diverse colonne sonore, alcune anche premiate, con cui avevo realizzato la colonna sonora delle audioguide di Pompei 20 anni fa, e che nel frattempo è diventato mio amico. L'ho invitato a venire a San Giorgio a dare uno sguardo a questo bosco meraviglioso con queste 10 architetture che sono appunto queste Vatican Chapels, per capire se fosse il caso di realizzare una colonna sonora, se avesse voglia di farlo e se voleva insomma intraprendere questo progetto insieme a me. Lui è venuto, si è innamorato di questo posto e quindi abbiamo deciso di partire con questo progetto. Le Vatican Chapels sono 10 piccole chiese, più un padiglione che ne raccoglie il senso complessivo, che rappresentano il padiglione vaticano della Biennale d'Architettura del 2018. La Santa Sede ha voluto avere un padiglione alla Biennale, ha deciso di installarlo sull'isola di San Giorgio ed ha affidato a questi 10 architetti di fama internazionale, di culture e anche di religioni più diverse, l'incarico di realizzare queste piccole 10 chiese, queste piccole 10 cappelle, distribuite nel bosco della Fondazione Cini. C'è un filo conduttore che in qualche modo lega queste 10 piccole strutture, oppure sono completamente diverse le une dalle altre? Sono completamente diverse le une dalle altre, perché le uniche indicazioni che erano state date, a parte appunto quello che fossero delle piccole cappelle all'interno del bosco, ispirandosi al progetto della cappella nel bosco del cimitero di Stoccolma di Gunnar Asplund del 1920. Il filo conduttore era soltanto il fatto che ogni cappella potesse avere esclusivamente un leggio e una croce. E poi infatti queste cappelle sono tutte completamente diverse, cioè ce n'è una in pietra, tutto di mura, in pietra grezza, massiccia, ce n'è un'altra che è una panca, una croce, senza la struttura intorno, che è la Carla Giuasaba, una panca e una croce in acciaio. Oppure c'è Javier Corvalana, che è un cerchio appoggiato su un palo con una croce al centro, un cerchio enorme. Quindi sono tutte molto diverse l'una dall'altra, e anche quindi l'interpretazione è così diversa oltre che la struttura. E così è per le musiche che Antonio Fresa ha composto, perché lui in ogni cappella è veramente entrato, e anche ogni cappella forse è entrata dentro di lui, e ha cercato di coglierne non soltanto gli elementi architettonici che gli dessero ispirazione insieme alla natura del bosco, ma anche di capire che cosa ci potesse essere dietro il pensiero di ognuno degli architetti. Volevo chiederle, anche se ovviamente è una domanda così un po' azzardata, se ce n'è qualcuna di queste strutture che la colpisce particolarmente ogni volta che la vede. Sì, sì. Allora, intanto tutte, cioè, non faccio per fare, cioè, per essere equa, però veramente entrare nel bosco della Fondazione Scini, cioè, già l'isola di San Giorgio, sono 3 minuti di battello, dall'altra parte del canale c'è la piazza San Marco, quindi già arrivare sull'isola è una magia. Poi entrare in questo bosco che è alle spalle, sul lato opposto a San Marco, già il bosco lui è estremamente suggestivo. Incontrare queste strutture che sono grandi rispetto al bosco è un'emozione. Ogni volta che c'entro, io adesso ci sono entrata tante volte. Comunque sì, c'è una che mi sta particolarmente a cuore, che mi piace particolarmente, che è una panca e una croce di Carla Giuasaba, che è questa croce d'acciaio con un elemento orizzontale che invece rappresenta una panca, che è bellissima perché io vedo che, cioè, il bosco faccia parte delle architetture, no? Quindi spesso si intreccia con le architetture. Per esempio in quella di Foster è cresciuto un gelsomino e si è intrecciata con la cappella, che è veramente meraviglioso. Quindi il bosco è proprio intrecciato, è parte dell'esperienza architettonica. E nella Giuasaba il bosco è proprio edificio, nel senso che lì c'è soltanto questa croce in acciaio, che quindi riflette anche il bosco e diventa mimetica in alcuni momenti, ed è veramente emozionante. E la musica che Antonio Fresa ha composto per la cappella di Carla Giuasaba è la mia preferita, fra l'altro, del casuale, o non lo so se è casuale, forse sono anche influenzata, però sì, quella. Secondo lei è necessario, come dire, arrivare un po' preparati, oppure questo percorso in qualche modo conduce il visitatore a una scoperta che può avvenire anche senza avere degli elementi acquisiti prima? Allora, io mi occupo di audioguide, no? Di racconti multimediali, di racconti sonori, di storytelling. La mia azienda lo fa da 61 anni, quindi io penso che arrivare in un posto ed essere accolti da uno strumento che racconta possa anche essere sufficiente. E poi io sono anche così di indole, cioè che secondo me è bello anche lasciarsi stupire. Se siamo accolti da qualcuno che poi ci può raccontare qualcosa, e le persone che arrivano nel bosco della Fondazione, cioè la visita che deve essere prenotata è disponibile il venerdì, il sabato e la domenica, per adesso abbiamo riaperto con prudenza e poi lo sarà, insomma, sperando che le cose si rimettano a posto tutti i giorni, è accompagnata da questa audioguida. L'audioguida racconta anche, non c'è soltanto la musica di sottofondo, quindi vengono distribuite queste audioguide in 6 lingue e c'è un racconto molto accurato con le parole degli architetti, al di sotto delle quali, come sottofondo, ci sono le musiche composte da Antonio Fresa. Quindi secondo me lasciarsi sorprendere può andare bene. Anche perché il contesto naturale veramente quasi ci coccola, ci accompagna in tutto questo percorso, quindi come se fosse una doppia sorpresa. Sì, riempie, cioè esci veramente che sei riempito. Ogni persona con cui sono andata, ma ogni volta che anch'io vado, l'altro giorno sono andata con la mia bambina di 8 anni, cioè 3 figli, le ha volute ascoltare tutte, con tutte le musiche, i brani musicali continuano oltre le parole, continuano per la loro lunghezza. Tutte, perché è veramente un'esperienza immersiva. L'ultima domanda che voglio farle è proprio sulle audioguida, visto che lei ci è cresciuta in mezzo, perché appunto la sua famiglia se ne occupa da sempre. Come è cambiato? Come l'ho visto cambiare questo mondo? Allora, di questo mondo secondo me non è cambiato il principio base, che è l'importanza del racconto, perché alla fine le persone... Secondo la mia esperienza, la mia azienda ha 61 anni, io dico sempre che sono cresciuta a pane audioguide, no? Perché andavo in questa nell'azienda di mio padre e ci giocavo proprio. Quindi, per quanto, cioè, secondo la mia esperienza, quello che le persone veramente cercano è un racconto che rimanga, ed è la cosa più importante in assoluto. Poi sì, tutte le multimedialità possibili, immaginabili, la realtà virtuale, tutto quello che si vuole, però... che sono gli elementi che poi l'hanno fatto cambiare le audioguide, ma il racconto è la parte più importante e credo che questo non cambierà mai, perché comunque abbiamo bisogno di sentirsi raccontare anche delle fiabe fin da quando siamo piccine, no? Quindi l'importante è riuscire a incantare, e questo è l'elemento su cui noi puntiamo di più, e questo è l'elemento appunto che ci ha spinti a realizzare questa colonna sonora e poi a realizzare questo disco, che tra l'altro la colonna sonora ha dato origine a un disco ed è pubblicato sulle piattaforme digitali per il momento. Quindi secondo me questo aspetto delle audioguide non cambierà mai. Poi sicuramente la tecnologia ha, quindi le audioguide si adeguano. Quindi lo strumento però è strumento, appunto, non è fine, come purtroppo spesso succede che sia l'interpretazione, cioè che lo strumento sia la parte più importante. Invece io sono veramente convinta di no. Ci fermiamo per qualche istante, restate con noi. Enea, raccontato da Virgilio, era un profugo che fondò Roma. E se è vero che la tradizione è spesso un'innovazione riuscita, un italiano a volte è uno straniero che ce l'ha fatta. Oggi i nuovi italiani sono quelli che vincono Sanremo o quelli che scendono in campo con la maglia azzurra. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 21 con I figli di Enea, storie di nuovi italiani. Naturalmente qui su Radio 24. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Globetrotter 24. You don't have to take this crap. You don't have to sit back and relax. You can actually try changing it. Ci spostiamo di poco, restiamo nel nord Italia. In Piemonte sono moltissimi piccoli borghi disseminati nel paesaggio delle Langhe, Roero e Monferrato. Tra questi un altro borgo bandiera arancione del Touring Club Italiano, che ha fatto del buon vivere e della sostenibilità un'altra bandiera altrettanto importante, ed è su questo che punta anche per l'estate che sta arrivando. Il borgo è quello di Guarene e ce lo racconta l'assessore al turismo Claudio Battaglino. Guarene è un paese in provincia di Cuneo, a 2 passi da Alba, da cui è separato dalla vallata del fiume Tanaro. Il borgo storico è appoggiato su una collina dominata da un castello settecentesco e si trova in una posizione privilegiata. Abbiamo una vista incantevole sulle colline di Langhe e Roero, che qui paesaggi vitivinicoli sono riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Nel nostro borgo, tra i viottoli tortuosi lastricati di pietra, si può trovare una passeggiata chiamata Paramuro,